Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre vi ricordo l'indirizzo mail al quale scrivere, unabusoalgiorno@radio24.it, e vi ricordo anche il mio blog Guardie o Ladri. Lo trovate digitando un motore di ricerca oppure andando sull'home page del Sole 24 Ore. Il 24 agosto abbiamo affrontato l'argomento degli indennizzi agli esuli istriani. Abbiamo avuto numerosi ospiti e non pensavo, non credevo, lo dico onestamente, che quella puntata avrebbe raccolto così tanto interesse. Sono state molte le lettere che sono giunte in redazione, alcune ovviamente di persone interessate alla causa, altre, ed è il caso appunto dei radioascoltatori che ora sentiremo, sono andate in argomenti affini, vale a dire, se lì affrontavamo il discorso degli esuli istriani, due splendide mail ci hanno invece ricordato e segnalato il dramma che hanno vissuto i nostri connazionali che sono stati costretti ad abbandonare la Libia. Sapete che molti di queste persone venivano anche definite Tripolini o Tripoline, proprio dal nome della capitale di questa meravigliosa nazione, che però qualche problemino l'ha anche dato e continua anche a darlo alla comunità internazionale. Furono circa 20.000 gli italiani che nel 70 si videro confiscare di tutto e di più. Allora, per parlare di questa tragedia spesso dimenticata, noi abbiamo in linea la dottoressa Patrizia Dalbò. Buongiorno. Buongiorno a lei. E quello che è stato per 8 anni il presidente dell'Associazione Italiana per i Rapporti Italo-Libici, Leone Massa. Buongiorno Massa. Buongiorno a tutti voi. Allora, io direi, anche per una questione di galanteria, a me piace moltissimo essere galante, partiamo dalla dottoressa Dalbò, che ha scritto una lettera, devo dire, veramente molto molto molto bella. Anzi, io la invito anche a metterla sul suo sito, sul sito che lei ha creato con degli amici come lei, esuli, che si chiama tripolini.it. Allora, dottoressa Dalbò, da dove vogliamo partire? Vogliamo partire da una cosa che mi ha colpito moltissimo, vale a dire la possibilità che vi è stata negata per tantissimi anni di andare anche a piangere sulla tomba dei vostri cari. Partiamo da lì perché mi sembra un aspetto umano fondamentale. Allora, sì, innanzitutto penso che il fatto di lasciare un paese e non poterci più tornare, dove tu hai vissuto comunque una vita, da generazioni eravamo giù, avevamo tutto quanto, la nostra vita era lì, il saper di non poter più neanche mettere piede in quel paese, essere considerati dei cittadini indesiderati, non poter neanche andare a portare un fiore sulla tomba dei nostri cari, penso che sia una cosa, oserei dire, disumana. Tra l'altro questo cimitero, il cimitero di Amaggi, fu saccheggiato e profanato. Ora fortunatamente è stato risistemato, ristrutturato al riparo da saccheggio e profanazioni. Ecco, io proseguirei con un altro tema che mi ha colpito moltissimo, cioè lei dice: abbiamo messo online anche una serie di racconti chiamati Castelli di Sabbia, per ricordare ai ragazzi che la storia non è soltanto quella che ci insegnano, magari ricominciando ogni volta che si cambia ciclo scolastico con gli antichi romani, le tombe, gli egizi, eccetera eccetera, che non se ne può più, ma la storia è anche la storia contemporanea. Ecco, ma allora perché la storia, la scuola, la formazione, l'educazione scolastica, secondo lei, si dimenticano di questa storia e di questa pagina dolorosa e tragica per la nostra nazione? Allora, dunque, io parto a monte, nel senso che io e il signor Massimo Russo, che è la persona che ha scritto con me questi racconti, inizialmente li abbiamo scritti per noi, diciamo, per un attimino rielaborare tutto quello che c'era successo, perché i nostri ricordi chiaramente sono i ricordi di due bambini, perché io avevo 6 anni e lui 7. E successivamente però il secondo motivo era perché comunque ci rendevamo conto che la stragrande maggioranza delle persone, degli italiani, non sapevano nulla di questa storia, o perlomeno non sapevano quello che ci stava dietro, come fummo trattati, come quello che abbiamo subito. Perciò il nostro scopo era appunto questo, di divulgarlo il più possibile, soprattutto negli ambienti scolastici, nelle biblioteche, affinché appunto anche le nuove generazioni venissero a conoscenza di questa pagina di storia. E questo lo trovo doveroso, ed è per questo che io ricordo ancora il vostro sito www.tripolini.it. Io sull'onda emotiva della lettera che lei ci ha scritto vorrei trarre spunto da una parentesi che lei ha inserito per parlarne però con Leone Massa, che appunto per 8 anni è stato a capo dell'AIRIL, che è appunto l'Associazione Italiana per i Rapporti Italo-Libici. Cioè, ad un certo punto la signora Dalbò ci dice: erano circa 400 i miliardi di lire all'epoca conteggiati, il valore di quello che avrebbe dovuto essere, come dire, il risarcimento che a noi spettava. Ecco, ma le chiedo, Massa, come si può risarcire il dolore? Mi sembra francamente assurdo, no? Come si può risarcire una persona che ha perso tutto e che ha lasciato il cuore, una parte del proprio cuore, in un posto dove da generazioni viveva? Ma io penso che sia dovere di qualsiasi stato civile, è un stato di diritto, di risarcire prima di tutti queste persone dei beni perduti, rivalersi su uno stato ricco come la Libia e poi, come dire, riconoscergli i danni esistenziali. Esatto, che forse sono la parte più complessa, la parte più completa. Invece, fino ad oggi, sono state soltanto degli acconti e anche su maniera svalutata. Assolutamente svalutata. Ecco, Massa, lei era in Libia perché? Per fare cosa? Qual era la sua attività? Qual era la sua storia, diciamo così? Un imprenditore, e quindi sono andato in Libia negli anni 70 per dei lavori da eseguire in Libia. E in verità molte difficoltà, molte cose, e a un certo momento per la richiesta libica dei danni di guerra del periodo coloniale, bloccati i crediti, bloccati i lavori, c'è stato. Io in verità a un certo momento mi sono rivolto al Tribunale di Tripoli perché fosse mandato un consulente tecnico di ufficio a constatare i lavori da me eseguiti, e ho avuto ragione avanti alle corti libiche. Veniamo alla politica, non alla politica parolaia, o meglio, forse siamo ancora nella politica parolaia quando entreremo nel vivo di questo discorso. Vale a dire, lei ci segnala, e poi potete trovare anche ulteriori informazioni sul sito www.airil.it, ci segnala che il Parlamento, insomma, comunque ancora nel 2008 ha dato segni di vita, no? Ha dato segni di vitalità, quantomeno, con dei disegni di legge, 3 per la precisione, che dovrebbero andare nel senso di un risarcimento per le vittime di questa cacciata dalla Libia. Però a oggi non se ne sa niente, mi pare, no? Cosa sono il risarcimento agli esuli della Libia? E un'altra cosa sono il pagamento dei crediti impagati dalla parte della Libia alle imprese creditrici. E di questo stiamo parlando, giusto? Sì, giusto. Ecco. Io vi dico che ho avuto l'esperienza in questi 8 anni un po' deludente per quello che è la politica, perché centinaia... Ma che cosa strana, Massa? Centinaia di interrogazioni e interpellanze parlamentari a nostro favore, ordini del giorno votati all'unanimità dalla Camera, perché impegnavano il governo a provvedere a dare una garanzia sovrana dello Stato per permettere alla nostra diplomazia di farsi far pagare ai libici. 3 disegni di legge presentati nella passata legislatura con la firma di tutti i gruppi parlamentari, dall'estrema destra all'estrema sinistra. Però insomma non si vede la luce. Io tornerei, per concludere la puntata, ringraziando Massa, alla signora Dalbò. Le chiedo, è tornata in Libia? Tornerà? Tornerò sicuramente. Adesso per problemi familiari non posso andare, perché era previsto che dovevo partire per ottobre, poi la cosa è slittata, ma sicuramente tornerò, perché è 40 anni che sto aspettando di tornarci. È giusto. Ma torno, cioè non, sai, io quando sono partita ero una bambina, di conseguenza i miei ricordi sono molto, come dire, sfocati. Certo. È proprio un bisogno che ho io di rivedere la terra in cui sono nata, in cui i miei genitori sono vissuti, anche i miei nonni. È assolutamente Un bisogno del cuore, diciamo. Esatto, rivedere la mia casa, che presumo ci sia ancora perché era nella parte vecchia, e perché comunque io sento che le mie radici sono rimaste là, anche se ero comunque molto piccola. Assolutamente. Ma la cosa che veramente può sembrare anche banale, però che per me ha un'importanza fondamentale, per me è tornare giù a Tripoli, poter girare liberamente come una qualsiasi turista per la città, e poter tornare e poter ripartire però a testa alta questa volta. Assolutamente. Non con la paura. E non con la paura di essere inseguito. Io ringrazio la signora Dalbò per la sua testimonianza. Ricordo a tutti che è possibile scaricare su podcast le puntate di Un Abuso al Giorno. Ringrazio in regia Filippo Aureggi e in studio Antonella Migliaccio. Roberto Calullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.